Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Seguito della storia di Don Raimondo. Arrivato nel castello di Lindenberg, le mie capacità, peraltro più che mediocri di cacciatore, mi conquistarono rapidamente l'affetto incondizionato del barone. Fu là che vidi per la prima volta vostra sorella e che la sua giovinezza e il suo fascino mi toccarono. Dal primo giorno capii che ero innamorato. Non so se furono le sue qualità o la sua bellezza a incantarmi, ma da quel momento nessuna donna contò più per me. Dal primo istante seppi che il mio destino e il suo erano ormai inestricabilmente legati, fino a confondersi, e tempestai la baronessa di domande su di lei. «È mia nipote», mi disse un giorno, «ma forse ancora non sapete che sono una vostra compatriota. Il duca di Medina Celi è mio fratello, e Agnese è la figlia del mio secondo fratello, Don Gastone. È destinata al convento fin dalla nascita e prenderà il velo non appena tornerà a Madrid». Questa notizia, del tutto inaspettata, lasciò Lorenzo stupefatto. «Destinato al convento? Fin dalla nascita? Ma è la prima volta che sento parlare di un simile progetto», esclamò. «Non mi sorprendo, mio caro Lorenzo», gli rispose Don Raimondo, «ma ascoltate il seguito. Forse non avete finito di stupirvi, e credo di potervi rivelare sulla vostra famiglia delle particolarità che ignorate completamente e che so dalla bocca di vostra sorella». E continuò così il suo racconto. «La rivelazione di un simile voto mi sorprese almeno quanto voi. Ammettevo difficilmente che si potesse sacrificare in quel modo la libertà e, per così dire, l'esistenza di una persona senza il suo consenso, e questo per ottenere non so quale grazia soprannaturale, della quale sarà l'ultima a trar beneficio. Fatto sta che quando era incinta di Agnese, vostra madre, Doña Inesilla, fu colpita da una pericolosa malattia. Promise allora, se fosse guarita, di consacrare il bambino che doveva nascere a Santa Chiara, se femmina, a San Benedetto, se maschio. Guarì. Agnese venne al mondo viva e il suo sacrificio fu consumato. Don Gastone si era associato senza protestare al voto azzardato dalla moglie, ma conoscendo le opinioni del duca, suo fratello, sulla vita monastica, restò inteso che gli si sarebbe nascosto il destino riservato a vostra sorella. Venne perciò affidata giovanissima alla zia che proprio allora aveva sposato il barone di Lindenberg, e questa se la portò in Germania col compito di prepararla con tutti i mezzi in suo potere al futuro per lei stabilito. Agnese venne messa in un convento poco lontano dal castello, ma la sua natura altera e indisciplinata non tardò a prendere il sopravvento. Agnese non sapeva fingere, e la sua ripugnanza per la vita monacale fu presto evidente. Don Gastone ne venne informato, e nel timore che un vostro intervento impedisse loro di rispettare un voto che consideravano sacro, decise di tenervi lontano finché non fosse compiuto l'irrimediabile. La vestizione venne fissata in coincidenza con un vostro viaggio, e nel frattempo ci si guardò bene da rivelare il voto fatale di Doña Inesilla. Agnese non conosceva il vostro indirizzo, le vostre lettere venivano passate al setaccio prima di esserle consegnate, ne sfrondavano con cura quei passaggi che potevano ispirarle rimpianti troppo cocenti per un mondo che doveva rimanerle sempre sconosciuto, e le sue risposte gliele dettavano sia la zia sia Dama Cunegonda, la sua governante. Decisi di oppormi con tutti i mezzi a un progetto così barbaro. L'amore per Agnese e l'ingiustizia di cui era vittima mi spinsero a cercare di piacerle. Le dichiarai i miei sentimenti e cercai di convincerla che aveva in me non solo un innamorato, ma un alleato e un amico. Dissi che vi conoscevo, mi vantai della nostra amicizia, beveva le mie parole e il pensiero dell'affetto che ci legava contò molto nel sentimento che a poco la spinse verso di me. Nonostante questo, non mi è stato facile farle ammettere che mi amava, ma quando le proposi di riconquistare, lottando, la sua libertà e di lasciarsi rapire da me, mi rispose di non pensarci nemmeno. «Siate generoso, Alfonso. Avete il mio cuore. Non abusate del dono che me ne ho fatto. Io sono molto giovane e mio fratello, il mio solo appoggio, è lontano. Invece di spingermi a un'azione disonesta che macchierebbe per sempre la mia vita, sforzatevi di conquistare l'affetto dei miei tutori. Mio zio vi stima e mia zia, dura, implacabile e crudele per tutti, non può dimenticare che l'avete salvata dalle mani dei suoi assassini. Io sono vostra. E quando vedranno che il loro progetto non si può realizzare, spero che i miei genitori non me ne vorranno della mia disubbidienza e troveranno qualche altro modo di adempiere al voto funesto di mia madre. Avrei tentato qualsiasi cosa per salvare la mia Agnese, ma la certezza del suo amore mi diede le ali. La baronessa fu il mio principale bersaglio. Doveva avere allora 40 anni e non avevo dimenticato la sua sfavillante apparizione a Luneville nel cortile del Leone d'Argento. Certo, sulla sua bellezza già l'età si stendeva come un velo, ma ne conservava dei resti imperiosi. Raddoppiai i miei sforzi per piacerle e, ahimè, vi riuscii anche troppo bene. Delle mie principali occupazioni era di farle la lettura e qualche volta vi passavo la notte. Mi sono ingoiato per lei tutta la biblioteca del castello al ritmo di un romanzo al giorno. Una sera mi trovavo solo con Doña Rodolfa. Avevo appena terminato le soporifere avventure del re Tritone e della regina di Basalto e mi preparavo a raggiungere la mia Agnese quando la baronessa mi fermò. «Oh», disse con tono languido, «che ne pensate? Credete che possa esistere al mondo un uomo capace di un amore così assoluto e così puro?» «Io», le risposi, «ed è il mio cuore che me ne dà la certezza. Doña Rodolfa, se avessi la più piccola speranza di muovervi a pietà, e se così facendo fossi sicuro di non suscitare la vostra collera, come vi direi subito il nome di quella che amo». Mi lanciò un'occhiata singolare. «E se io ve ne dispensassi? Se vi dicessi che conosco l'oggetto dei vostri desideri e che quella che amate già da molto tempo vi ricambia e maledice il vincolo fatale che l'allontana da voi? Ah, Doña Rodolfa», esclamai cadendole ai piedi e afferrando supplichevole la sua mano, «avete penetrato il mio segreto? Qual è la vostra decisione? Che cosa mi devo aspettare? Posso sperare o devo fin d'ora rinunciare alla vostra amicizia?» Non ritrasse la mano e mi parve di sentirla tremare, ma con la mano libera si coprì gli occhi. «Come potrei respingervi?» gemette, scossa da un turbamento profondo. «Sarebbe inutile continuare a lottare. Fierezza, onore, santità del vincolo che mi unisce al barone, tutto è vinto, tutto è spazzato via, ed è ancora poco pagare con queste rinunce derisorie la signoria assoluta del vostro cuore». Si fermò ansimante e mi osservò come sospesa alla mia decisione. Immediatamente ogni esultanza si spense sul mio viso. Mi rialzai in preda a una confusione, a un imbarazzo indicibili. Con un po' più di esperienza avrei potuto evitare una simile cantonata. La vita da allora mi ha insegnato che non esistono virtù inaccessibili, che i sentimenti sono gli stessi per tutti e che è sempre pericoloso imporre a una donna, anche di 40 anni, la promiscuità prolungata con un brillante e focoso giovanotto. Il mio turbamento, le mie esitazioni non sfuggirono alla baronessa. «Come?» esclamò raddrizzandosi. «E questa? Tutta la felicità che avevo diritto di aspettarmi? Spiegatemi, che cosa succede?» Farfugliai un discorso lungo e confuso dal quale risultava che il suo fascino, l'atmosfera di voluttà che emanava così pericolosamente da lei, la bellezza sovrana del suo viso, mi avevano infatti colpito da molto tempo, tanto che rinfrancato dalla sua costante benevolenza, non avrei certamente saputo fermarmi davanti agli scrupoli più rigorosi dell'onore e dell'ospitalità se il mio cuore non avesse già parlato. Se una donna, per la felicità della quale lei poteva tutto, non avesse già riempito in modo esclusivo questo cuore, di modo che il mio destino e la mia vita le erano legati. «Il suo nome! Voglio sapere il nome di quella donna! Saprò io farle espiare l'audacia di contendermi il tuo cuore!» Scordando ogni ritegno, si appese al mio collo e sentì il suo fiato bruciarmi il viso. Poiché la scostavo con dolcezza, si gettò violentemente a terra e la sua collera si mutò in singhiozzi. «Alfonso, amico mio», gridò, «siete testimone della mia disperazione. Un amore così totale, così profondo, non riuscirà a commuovervi? Quella donna che vi ama, che cosa ha fatto per conquistarvi? Quale dedizione vi ha mostrato? Quale sacrificio assoluto di se stessa di cui non sia anch'io capace? Dite, in che cosa supera Rodolfa?» Cercai di rialzarla, ma il mio atteggiamento conciliante non fece che esasperarla. «Saprò il nome della mia rivale», stridette minacciosa, «e quando lo saprò, guai a lei. Poco fa sollecitavate la mia protezione. E dunque alle mie dipendenze chi è? Vi ingiungo di dirmi il suo nome. Invano vi opporrete alla mia vendetta. Vivrete circondato di spie e non ci sarà un gesto, uno sguardo vostro di cui non mi si renderà conto. Andate, Alfonso. Saprò farvi scontare duramente la delusione che vi devo». Così dicendo, schiumò di rabbia fino a perdere il respiro. Chiamai la sua gente e, approfittando dello scompiglio provocato dal suo brusco svenimento, lasciai la stanza e fuggii lottando contro il mio turbamento, in preda ai più amari pensieri, disgustato di me stesso e in rivolta contro il destino. Percorrevo interminabili corridoi cercando di raggiungere il giardino quando, nel passare vicino a una sala bassa che si apriva sulla notte, vi scorsi Agnese, seduta davanti a un largo tavolo e circondata da una profusione di rotoli di carta e di disegni di ogni genere. Non alzò neppure la testa quando entrai, tanto il suo lavoro pareva assorbirla. Mi avvicinai senza parlare. Mi fece cenno di sedermi. Bellezza struggente dell'ora, la presenza di Agnese sola nella grande stanza oscura vicina a me, erano una compagnia meravigliosa alle inquiete vicende dei disegni che tenevo tra le mani. Si muovevano tutti intorno a un tema centrale, sempre lo stesso, e raccontavano qualcosa come una storia soprannaturale e selvaggia che proseguiva attraverso i dipinti. Portavano tutti il segno di un'unica ossessione. Domandai ad Agnese se fosse lei l'autrice di quelle composizioni così curiosamente originali. Vi scoprivo il segno di un vero talento. Uno dei soggetti mi colpì in modo particolare per l'atmosfera di astrazione che creavano insieme l'atteggiamento di tutti i personaggi e la configurazione geometrica dei luoghi. Dal fondo di un corridoio, che si stendeva a perdita d'occhio e sul quale si apriva una porta molto bassa, pareva avanzare un personaggio di statura soprannaturale, in abito religioso. Nel vano della porta si affacciava una muraglia di teste rapprese nelle espressioni più atroci e diverse. Il particolare più curioso era che il pittore, servendosi di tutte le risorse di una prospettiva bene intesa, era riuscito a collocare proprio sotto la cornice della porta, ma in lontananza, come a una incalcolabile profondità, una tavola apparecchiata intorno alla quale brulicavano corpi assiepati e bocche spalancate, e che il loro terrore, scandendo i passi dell'essere, si proiettava sul davanti del disegno. Il volto dell'essere era velato. Al suo braccio pendeva un rosario. Il suo abito era sporco, imbrattato e gocciolante di sangue. Attraverso uno squarcio del vestito si intravedeva il seno lacerato da una ferita fresca. Con una mano teneva una lampada, con l'altra un grande coltello, e pareva che volesse uscire dal quadro. Mi girai verso Agnese. «Che cosa significa?» domandai. «È una vostra invenzione?» Mi guardò sorridendo. «Oh no! È l'invenzione di una testa molto più capace della mia. Ma è possibile che da 3 mesi che siete a Lindenberg non abbiate mai sentito parlare della monaca sanguinosa? È davvero stupefacente che nessuna delle cronache antiche abbia ritenuto opportuno ricordare l'esistenza di un così notevole personaggio. Vorrei proprio potervi raccontare la sua vita. Purtroppo la storia comincia con la sua morte. Soltanto allora ha provato per la prima volta il bisogno di manifestare clamorosamente la sua intrusione in questo mondo, e a questo scopo si è appropriata del castello di Lindenberg. Il suo amore del lusso l'ha spinta ad alloggiare nella più bella stanza della casa. Una volta sistemata là, si è data alla pazza gioia e ogni notte tavole, sedie e credenze eseguivano sotto la sua direzione una specie di replica del Sabba. Nessuno potrà mai dire perché i fantasmi escono la notte. Il fatto è che questo giochetto dura da 100 anni. Ma voi, Agnese, credete a tutto questo? Personalmente no, come potete immaginare. Gli anni passati in convento mi hanno guarita una volta per sempre da tutte queste frottole, ma al castello ci credono tutti e non mi azzarderei a esprimere la mia incredulità. Se avete un po' di pazienza, vedrete una faccia, se possibile, ancora più spaventosa. E se vi piace, ne disporrete come meglio vi piacerà. Si alzò, si diresse verso un armadio che si trovava in un angolo della stanza e, prendendo una piccola scatola da un cassetto, la aprì e me la portò. «Avete mai incontrato l'originale di questo ritratto?» disse guardandomi. «Era il suo». Folle di gioia del regalo che mi faceva, portai con effusione la sua immagine alle labbra. Caddi in ginocchio davanti a lei e mi abbandonai a tutte le espressioni dell'amore più appassionato. Sospirava e rispondeva alle mie carezze, e già la nostra estasi giungeva al colmo quando con un grido Agnese si liberò del mio abbraccio e uscì dalla stanza per la porta che dava sul giardino. Non mi sapevo spiegare la sua brusca partenza. Mi rialzai per raggiungerla, ma quale non fu la mia confusione nel vedere in piedi vicino a me la baronessa che mi guardava soffocata dal furore. La rabbia le legava la lingua e quanto a me ero troppo imbarazzato per poter parlare, ma dopo un momento le tornò il fiato. «Non mi ero sbagliata!» esclamò. «La civetteria di mia nipote trionfa, ed è a questa sgualdrinella che mi si sacrifica. Ma almeno, sotto un certo aspetto, sono soddisfatta. Non sarò la sola a piangere di nostalgia. Saprete anche voi cos'è un amore senza speranza? Aspettiamo da un giorno all'altro l'ordine di far tornare Agnese a Madrid. Una volta arrivata laggiù, prenderà il velo ponendo così tra sé e voi un ostacolo insormontabile. Era inutile ormai qualsiasi discussione. Sicuramente la baronessa mi aveva preceduto e conoscevo l'ascendente che esercitava sul marito. Inutilmente chiesi il permesso di rivedere Agnese prima di partire e lasciai il castello più morto che vivo. Il barone mi fece capire che solo la presenza di sua nipote mi impediva di prolungare il mio soggiorno, ma stringendomi affettuosamente la mano mi dichiarò che non appena Agnese fosse partita potevo considerare la sua casa come la mia. «Addio, Alfonso!» mi disse la baronessa, e davanti al marito mi tese la mano. La presi e volevo portarla alle labbra, ma me lo impedì. E assicuratasi che il marito non poteva sentire, mi disse a denti stretti: «Mettetevi bene in testa che non vi siete liberato di me. Il mio amore per voi è diventato odio, e dovunque andrete, la mia vendetta vi inseguirà». Mentre la carrozza attraversava il cortile, mi sporsi dal finestrino e spiai disperatamente le finestre di vostra sorella, ma non apparve e mi ributtai indietro scoraggiato. Come scorta avevo un francese, il paggetto Teodoro, che mi aveva conquistato con intelligenza, fedeltà, garbo e che poco dopo mi rese un favore che me lo fece considerare come il mio angelo custode. «Fatevi coraggio, signor!» Così dicendo, mi presentò un bigliettino indirizzato a me. Lo aprii con impazienza. Conteneva queste parole, scritte dalla mano di Agnese: «Guardatevi bene da lasciare il paese. Nascondetevi come potrete in qualche paesino dei dintorni. Mia zia, quando vi crederà partito, smetterà di tenermi prigioniera. Il 30, a mezzanotte, sarò nel padiglione occidentale, non mancate, e concerteremo insieme un piano per il futuro. La vostra affezionata Agnese». I giorni seguenti ci nutrirono di un'attesa febbrile ma esaltante. Finalmente giunse la notte della liberazione. Era una notte stranamente maestosa e bella. La luna raggiava nel pieno del suo fulgore. Teodoro e io, appena suonate le 11, ci affrettammo verso il luogo convenuto. La campagna riposava in un silenzio opprimente. La torre dell'ovest ci apparve di lontano cinta di un misterioso alone che scavava nelle ombre insolite profondità. Udii battere la mezzanotte all'orologio del castello e da quel momento tutti i rumori della campagna si fissarono nello spazio ed emisero ciascuno la sua voce particolare. Passai così un quarto d'ora a spiare il minimo fruscio dell'erba, il più lieve gemito del vento, poi un passo leggero raggiunse silenzioso il padiglione e un momento dopo Agnese era tra le mie braccia. Non avevamo tempo da dedicare alle carezze, anzi Agnese, poiché volevo farla sedere, mi disse subito: «Mio caro Alfonso, i minuti sono preziosi. Dama Cunegonda non mi dà pace. È arrivato un ordine di mio padre al castello e fra una settimana sarò immolata. Non c'è speranza di piegare i miei genitori. Il loro fanatismo, pungolato dalle insistenze di mia zia, rende cieco il loro rigore. In questa situazione ho deciso di mettermi nelle vostre mani e di darvi la mia fiducia. Oggi è il 30 aprile. Fra 5 giorni, secondo la leggenda, la monaca sanguinosa dovrebbe ripetere la sua apparizione. Ho un costume identico al suo. Procuratevi una carrozza, pronta ed equipaggiata per un lungo viaggio, e aspettatemi davanti alla porticina esterna del castello. Quando l'orologio batterà la 1, io uscirò vestita come il fantasma e sfido qualsiasi abitante del castello, se mai ne incontrerò uno, a sbarrarmi la strada. Nel dire queste parole si strinse a me e lasciò scivolare il capo sulla mia spalla. Mi piegai su di lei. Mi guardava con gli occhi spalancati come incantata e fui sconvolto dal mutamento del suo viso. Vi leggevo insieme l'abbandono e lo sgomento, un amore illimitato e una fiducia disperata. Di colpo una porta si aprì. Dama Cunegonda apparve sulla soglia. «Per Santa Barbara!» La trovò inviperita, mentre Agnese con un grande urlo cadeva riversa. «È proprio ben combinata la vostra storia! No, ma sul serio, volevate fare il fantasma!» «State attenta a non diventarlo per davvero. Quanto a voi, Don Alfonso, dovreste arrossire e di approfittare in questo modo del candore di una giovane innocente, ma se Dio vuole, sono arrivata in tempo e la nobile signora sarà informata di questa faccenda. E ora, signor fantasma, vogliate seguirmi immediatamente?» Avanzò verso Agnese, che tremava tanto da non riuscire a riprendere il controllo di sé, e tirandola per la mano le indicò la porta con violenza. Agnese stava già per seguirla, ma io mi precipitai e cercai con preghiere, moine, minacce di convincere la vecchia, ma tutto fu inutile. Già si teneva sulla porta e vi spingeva la sua pupilla angosciata quando, con una rapida occhiata a Teodoro, mi lanciai su di lei, la spinsi indietro. Non era il caso di tergiversare. Con l'aiuto di Teodoro la legai e, imbavagliata, la portammo con noi.